mille lingue di fuoco come nella tua rababele, nelle mie chele. L'infedele stermina coppie come Mengele. Questo mondo crudele prevale Caino su Abele. Le speranze bruciano come candele all'ombra delle sere. Niente barriere, ci si perde la faccia come a Grun Lake. Sarò il tuo giustiziere nella morsa di una creeper crossface. Viaggio parallelo agli dei, la mia parola è proibita. Esplicita lingua forbita, Marterus, matrice omicida. La perfidia e l'invidia sono l'insidia del vaso di Pandora. Il tuo peccato di gola e la tua lingua deteriora senza fissa dimora. Fumo mandragora e mi stimola, sadico come Caligola. Uccido la traccia senza una virgola sulla mia iride fatta pellicola. Attimi violenti pessi come il Ku Klux Klan, brucio crocifissi all'ombra dei cipressi. La guerra di interessi è vicino e viste come Schindler. In uno sciame di lingue vi finite senza onore come Himmler. È la tragedia del vivere, se possibile cadere sipario. Adesso è tempo di uccidere. No, no, non importa se non rimarrà più niente perché tutto è contro me. È la tragedia del vivere, se possibile calare il sipario. Adesso è tempo di uccidere. No, no, non importa se non rimarrà più niente perché tutto è contro me. Fai spazio con sbarre mister Denso. Strazzo le tue orecchie, dipingo di rosso la tua dance floor. Faccetti fashion come Jenson. Fate l'hip hop per sport e vi accontento se vi suono con mazze da baseball. Testi con un contenuto troppo forte, così tanto che il mio demo te lo scarichi su rotten. Credete che per caso per avere un flow da mago vi basti guardare Harry Potter. Vengo a cena con Omar e Derek e ti chiedo mi presenti poi come Greg Potter. Ho idee balorde, la pula mi sequestra il micro per rilevare le impronte. Inoltre in giro storie più esplosive di una bomba. Rime sporche più di Jabba, non te lo lenti sul mio pentagramma. Vi di mezzo come Ranma, gli MC che sfidano finiscono su Jackass. Bomba e carta sotto fogli protocollo, demenza che fa perdere la testa come a Sleepy Hollow. Io non crollo, se spari ancora vivo è perché tu ora sei morto. All'ascolto sei già capovolto, basta un freestyle. Tu mostri i denti contro me, io faccio ricco il tuo dentista. Sbianco come il Dixon, ogni quartina son più colpi che una rissa. Ti lascio il sangue, così violento che non chiudo barre, chiudo spranghe. Caga mutande che si incredon bravi, volete il sangue in giro i dischi all'Avis. È la tragedia del vivere, se possibile calare il sipario. Adesso è tempo di uccidere. No, no, non importa se non rimarrà più niente perché tutto è contro me. È la tragedia del vivere, se possibile calare il sipario. Adesso è tempo di uccidere. No, no, non importa se non rimarrà più niente perché tutto è contro me. Frustrato, frustrato, brucio la cultura del mio stato. Soffocato sotto il suo substrato, gruppo zero su selciato. Macchie di roccia, stento libro illustrato. Come lo iato tra futuro e passato. Vi manipolo le drone, rimpiangete il giorno in cui non avete votato. Io vivo a Maragara come Verga, in mezzo a gente che si volta, fa l'indiana senza alcuna riserva. Io chiudo Joseph nella Vergine di Norimberga. Nel giro d'alberga l'ossessione e la furia, la sola che mi osserva. Cauterizzo le ferite con baci d'arsenico e non mi guardo più allo specchio, sono schizofrenico. Vieni con me, tormenti di neve in cui noi distingueremo forme. L'infame pronte all'eterno riposo, li vedremo sulla strada per l'inferno, camminando a ritroso sulle nostre stesse orme. Si invoca là la Mecca se non ti basta, sì. La falla ci sono chi vomiti, bronchi, metastasi. Assassini boss per calmare il mio mostro, ne a sputar sangue, è l'ora di ingoiare il vostro. Orgoglio nudo dico io quello che fa per te. Via pollice indice, tanto non hai altre tre. Sguardo di paura su di un tempo infinito, ed è la cura Ludovico che ti spara le palpebre. È la tragedia del vivere, se possibile calare il sipario. Adesso è tempo di uccidere. No, no, non importa se non rimarrà più niente perché tutto è contro me. È la tragedia del vivere, se possibile calare il sipario. Adesso è tempo di uccidere. No, no, non importa se non rimarrà più niente perché tutto è contro me. It's